Veniamo al dunque. Sicuramente questa crisi, bisogna prima di dire qualcosa su di essa, bisogna riconoscere una inadeguatezza concettuale complessiva. C'è stata una trasformazione così forte che inizia fondamentalmente dagli anni 90, è così profonda nel sistema economico, nel sistema capitalistico mondiale, per capire la quale non abbiamo ancora tutti gli strumenti concettuali. Diamo pure per scontato che non ce l'abbia l'economia neoclassica, perché l'assunto che il mercato avrebbe dovuto dare segni attraverso il sistema di prezzi della crisi che si avvicinava, che la crisi si sarebbe risolta, come dice quel personaggio di pochissime letture che è il professor Giavazzi nel 2008 sul Corriere, la crisi si sarebbe risolta in pochi mesi, poi continua a uscire e non aveva vergogna di farsi vedere. Quindi al di là di quello che è il contesto della scuola mainstream, quella che purtroppo con intensi e immensi danni sociali cognitivi si insegna all'università, e quindi, come diceva Rousseau, le arti e le scienze oggi fanno più danno che far del bene a coloro che si accostano alle agenzie della riproduzione della conoscenza. Non certo che voi uscite da questa università peggiori di quando siete entrati come livello cognitivo, per la scarsità cognitiva che ormai hanno le scienze sociali insegnate da funzionari dello Stato, non da intellettuali. Basta assistere ad alcune lezioni, sono alcune prediche che si sentono alla messa a domenica, uno capisce perché la gente si allontana dalla fede. Quindi anche l'economia non neoclassica, post-keynesiana, draghiana, ricardiana, Minsky ad esempio, che è stato l'unico che ha capito che si arrivava la tempesta, non per andare ancora indietro ad un'economia, riflessioni di Kalecki e anche di Keynes negli anni 30, 40, noi un quadro concettuale complessivo del perché e di come si possa uscire dalla crisi, bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che non c'è. Ci sono contributi anti-mainstream importanti, dobbiamo ancora ricomporli. Quello che però possiamo dire, e qui colgo l'invito di Vergallo, anche per questo credo che l'approccio che il mio collega ha scelto per affrontare questo tema sia quello giusto. Quello che possiamo dire, se rifugiamo dalle solite stupidità, cioè che questa crisi è come quella del 29, cioè tutte cose assolutamente cretine, quello che possiamo fare è tentare una comparazione tra le tre grandi crisi economiche mondiali. E forse da questa comparazione si può trarre una qualche direzione di comprensione del perché e di ciò che si potrebbe fare, misuro bene le parole, per non prolungare oltremodo la crisi. Perché non credo che si possa invocare o parlare delle misure per uscire dalla crisi, perché, come vi dirò comparativamente, le misure per uscire dalla crisi sono state terribili per l'umanità. Quindi è vero che adesso si avvicina un tempo di guerra, perché tra un po', con la trasformazione della Cina da potenza terrestre a potenza marittima, non è mai esistita nella storia del mondo una potenza marittima di 1.400.000.000 di uomini, quindi il problema della guerra è solo questione della guerra interimperialistica, come si usa dire in termini scientifici, è solo una questione di tempo. Però naturalmente nessuno ce l'augura, nemmeno uno come me, sa che le popolazioni, che i popoli sono, come diceva Edwell, scalari, quindi sono come gli alberi, e quindi naturalmente esistono dei diritti universali, però diciamo alcune piante crescono e altre non crescono, quindi vanno distrutte. Però questa è l'ultima razio che possiamo usare per uscire dalla crisi. Veniamo a qualche breve tratto, qualche silhouette della comparazione. Loro sanno la prima crisi economica mondiale fu quella del 1907. Su questo c'è un libro insuperabile a livello mondiale di quello che è stato il più grande storico economico italiano, che è Franco Bonelli. Franco Bonelli ha scritto per la Fondazione Einaudi un audio libretto 30 anni fa sulla crisi del 1907, che è ancora di una straordinaria attualità. Non c'è nulla di comparabile a livello mondiale. C'è qualche cenno nella grande opera di Paul Bayrock, La storia economica mondiale, che è un libro francese che ha delle pagine sul 1907 veramente ammirabili, però il resto è stupidità, che dice Paul Alcom Cameron, insomma, che pur vi facciamo portare come manuale, perché malissimo non mi fanno, solo male, sono assolutamente ineguagliati. Cos'era la crisi del 1907? La crisi del 1907 veniva, come loro sanno, da un intreccio tra la grande crisi agraria degli ultimi 30 anni dell'Ottocento e invece il grande inizio del grande take-off di crescita dei paesi second comer nell'industrializzazione, come l'Italia, i paesi dell'Europa del Sud, e cominciavano una via di sostituzione delle importazioni. E poi soprattutto veniva dopo il grandissimo sviluppo dell'industria nordamericana dopo la grande guerra civile americana, che è stata la prima grande guerra moderna. La prima grande guerra moderna, sia per l'uso di macchine tecnologiche avanzate, di strumenti tecnologici di altissima potenza, che saranno poi utilizzati nella guerra anglo-boera dell'inizio del Novecento, sia per l'ingente ricostruzione cui impegnò gli Stati Uniti, perché fu la prima guerra moderna, perché per la prima volta ci furono grandi sterminio di popolazioni civili, quindi bombardamenti non aerei su intere città, eccetera. Comunque lo sviluppo dell'industria nordamericana assunse livelli inauditi prima, una grande rete di costruzione delle ferrovie nordamericane, la creazione di un mercato borsistico che, come loro sanno, è consustanziale all'economia americana, dove la proprietà non si eredita per consanguinità o per mano pubblica dello Stato, si alloca, ma invece si scambia soprattutto sul mercato attraverso la creazione delle borse. Tutto questo però aveva creato un'enorme sovraccapacità produttiva anche in Europa. L'industrializzazione si sposta dall'Inghilterra, già si era spostata nella seconda metà dell'Ottocento, Francia, Germania. Il ruolo delle grandi banche miste, descritte insuperabilmente da Léville Boyer e da Jean Bouvier in Europa, è tale per cui si dà a questo sviluppo dell'industria strumentale di base e della grande industria meccanica, e soprattutto nasce l'industria chimica, quindi con uno sviluppo inaudito, l'industria elettrica, si crea la prima grande crisi di sovraccapacità produttiva, che ha un riflesso di distruzione di capitale fisso inevitabile, di disoccupazione di massa in Europa, ma nei paesi a proprietà pubblica, cioè proprietà diffusa, public proprietary, public company, insomma, nordamericana, questo impegna le banche e nel contempo le fa crollare. Naturalmente il mondo era molto più libero nella sua riflessione, nel suo affrontare l'industria, perché non avevamo grandi istituzioni economiche, il governo dell'economia. Voi leggete Hilferding, Il capitalismo finanziario, un libro del 1902, però che è un libro che andrebbe letto oggi, perché Kominsky è quello che ci aiuta di più a capire cos'è la crisi finanziaria in corso. E, capite, da quel libro non c'erano le banche centrali, c'erano prestatori in ultima istanza. In ogni paese, il mondo evoluto, più banche potevano battere monete. Si era però una cuspide di grandi banche. E come si risolve la crisi? Si risolve prima nel breve e poi nel lungo termine in modi diversi. Nel breve, attraverso un accordo oligopolistico, che oggi si chiameremo sussidiario, dal basso, che non a caso viene dal paese common law, quindi non a sistema romano-germanico, ma a sistema anglosassone. quando il grande capo del sistema bancario mondiale dell'Europa, che era J.P. Morgan, quindi Rockefeller in pratica, J.P. Morgan poi diventerà Rockefeller, e convoca J.P. Morgan a New York i grandi banchieri del mondo e agiscono come fosse una banca centrale mondiale. In fondo è quello che pensava Keynes quando pensava, poi anche un altro grande studioso distrattato, misconosciuto, il primo che ha avuto l'idea della banca mondiale, che era Pierre Mendès France, uno dei capi del socialismo francese, del radicalismo francese, che negli anni 30 scrive un libro straordinario, cui non si è persa memoria, soprattutto perché gli economisti oggi sono ignoranti e anche stupidi, cioè non sanno chi è Standard, figurati sanno chi è Pierre Mendès France, credo che sia un nome di una torta al cioccolato. E Mendès France scrive questo libro, La Banca Mondiale, che si ispira proprio a questa azione dal basso che ha avuto Morgan, che aveva riunito attorno a sé, ci aveva voluto tempo, portarsi dalla Germania, dall'Europa, andare negli Stati Uniti a Washington ci è voluto un mese. Nello stesso tempo la crisi mieteva disoccupati, mieteva fallimenti, però insomma il tempo a volte, avere tempo aiuta a prendere delle decisioni meno errate. E poi cosa fanno? Beh, agiscono come un insieme di banche centrali, cominciano a liberarsi delle azioni in modo coordinato, a chiudere in modo contestuale e coordinato alcune attività produttive, ad uscire dall'attività industriale, a riparare i danni dell'eccesso di indebitamento e della bassa capitalizzazione. Fanno un po' quello che oggi si fa con Basilea 3, no? Agisce per ricapitalizzare le banche a spese dei depositanti, naturalmente, quando ci riescono, ma allora c'era una netta divisione tra banche d'affari e banche commerciali, quindi era più difficile fare questo. I grandi azionisti privati pagano un prezzo terribile per risolvere la crisi. Solo l'autorità di grandi famiglie americane, Vanderbilt, J.P. Morgan, Rockefeller, di convincere il capitalismo mondiale. Diciamo che la crisi del 1907 è, così come lo confermerà la Prima Guerra Mondiale, anzi l'emersione dell'America, della Nord America, come potenza leader del mondo. Ricordatevi bene che la provvidenza ha dato ai popoli anglosassoni il dovere di dirigere il mondo. Finora l'hanno svolto abbastanza onorevolmente, con qualche colpo di Stato, le cose che si fanno quando si hanno responsabilità mondiali. Quando lo scettro passerà all'Asia saremo tutti morti. Quindi innalzate preci perché questo dominio duri a lungo. Vedete un po' cosa stanno facendo i tedeschi, che non comandano un cazzo ma si illudono di comandare. Cosa sono riusciti a fare con l'illusione del comando. Quindi capite che quando un popolo barbarico, ancora come ci spiega Weber nella classe agiata, prende il potere, le conseguenze sono terribili. Devo dire, l'oligarchia WOPS allora aveva invece un grande senso del suo potere mondiale e dei suoi dottori. Quindi si esce con un'azione coordinata spontanea. Naturalmente questo aprirà poi dei dibattiti immensi, per esempio tutta la corrente che sostiene ancora oggi che non servono le banche centrali, poi nasce di lì, no? Ma soprattutto, questo nel breve, nel lungo come si risolve la crisi? È con la Prima Guerra Mondiale, che non è prodotta cospiratoriamente, no? Non c'è nulla, probabilmente un pazzo serbo non avesse ucciso l'arciduca, forse la guerra non sarebbe scoppiata. Teorie complottistiche della storia, non, così come se il povero ragazzo tunisino non si fosse dato fuoco nelle primavere arabe, la montatura propagandistica americana per far fuori i militari egiziani che costano troppo e sostituirli con i loro servi delle fratellanze musulmane, non conoscendoli, non sapendo che hanno un'ala sinistra, diciamo, salafita, non avrebbe raccontato la favola delle primavere arabe a cui solo gli stupidi possono credere. No? Cioè, voglio dire, il contadino egiziano della primavera araba proprio non ne può fregare di meno. Infatti vedi come le cose vanno molto peggio adesso per tutti da quando hanno fatto queste stronzate di primavera, come vanno anche peggio per l'Ucraina e per la Georgia con le ridicole rivoluzioni arancioni. Gli americani sono molto bravi a inventarsi le cose, ma non sanno implementare, hanno un difetto di execution. Ma lasciamo perdere. E cos'è stata la questione che poi ha risolto la guerra? È stata la Prima Guerra Mondiale. E la Prima Guerra Mondiale cosa ha fatto? Ha distrutto lo stock di capitali in eccedenza. Cerchi di non stare appoggiato così, da un segno di rilassatezza. Sì. Fate tutti come se aveste due libri sotto le ascelle, soprattutto le donne. State un po' composti. Quindi ha distrutto un'immensa quantità di capitali e poi ha risolto il problema della disoccupazione con le montagne di morti della Prima Guerra Mondiale. I morti chi erano? I contadini, gli operai. Solo nelle guerre del dell'ultimo ventennio muoiono i figli delle classi agiate. Se voi aprivate il New York Times durante la guerra in Iran, i neri erano pochissimi, ma la maggioranza dei morti erano figli di upper class. Perché? Perché la guerra è diventata tecnologica e la tecnologia è ancora in mani bianche. Gli altri fanno la fuderia, fanno cose meno rischiose. Ma allora moriva colui che sarebbe stato disoccupato. Quindi la Prima Guerra Mondiale è stata di fatto la vera soluzione della crisi. Naturalmente però questa la cuspide del capitalismo mondiale risolve la crisi, non è solo questa, è anche il fatto che tutti, dopo il 1907, prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, cominciano a capire che ci debbono essere dei prestatori in ultima istanza, almeno nella finanza, e creano le banche centrali. La creano in modo molto diverso, naturalmente gli americani, che sono il popolo meno colto e quindi più intelligente dal punto di vista pratico al mondo, perché la cultura ottunde poi la pratica, e cosa fanno? Fanno una banca federale, non sanno benissimo che lo sviluppo della regione dei Grandi Laghi, dell'Illinois, sarà sempre superiore, come dico sempre, alla Louisiana, dove al massimo si pescano dei gamberetti, adesso neanche un po', perché c'è un po' di idrocarburi che però non fanno male alla salute, ma però sono piuttosto sgradevoli al gusto, e ci sono dei neri che suonano banjo, ma non è che abbiano dei sviluppi economici. Quindi ci voleva una banca che avesse come fine sia la stabilità finanziaria, ma soprattutto la crescita. Quindi creano banche centrali di questo tipo e dipendenti dal potere politico. Ancora oggi Ben Bernanke fa quello che gli dice il presidente americano, come lo faceva Greenspan. Questo mito neoliberismo dell'indipendenza delle banche centrali è un'invenzione solo europea e solo di alcuni stupidelli tipo Andreatta, Prodi, diciamo Ciampi, non parliamo di quel disastro intellettuale che è stato quell'individuo laureato alla scuola normale di Pisa in lingua greca latina, poi trovato a capo di una banca centrale che ha fatto più danni lui della Seconda Guerra Mondiale forse, ma per quello l'hanno fatto Presidente della Repubblica. Diciamo, quindi si esce dalla Prima Guerra Mondiale dalla crisi in questo modo. La cosa impressionante che fece dire a molti che il capitalismo si avviava non alla crisi, ma alla crisi ultima, come disse Lenin, no? L'imperialismo fase suprema, è ultima del capitalismo. E anche Keynes aveva le sue... Se uno legge quel formidabile libro con la biografia di Sidersky, di Keynes, sono quattro volumi, difficili da leggere, difficile che un professore della Bocconi lo legga, cioè le slide, no? Quindi è impossibile che leggano cose colte. E beh, come ci dice Sidersky, Keynes, che era ancora un economista neoclassico, non ha ancora scritto la teoria generale della moneta, comincia a avere dubbi sulla riproducibilità capitalista. E quei dubbi diventano enormi quando, appena usciti dalla crisi, appena usciti dalla guerra, si abbatte una nuova crisi. E questa, io ho sempre detto che il 29 ha ragioni eminentemente politiche, perché con la Prima Guerra Mondiale in Europa erano crollati ben tre imperi, zarista, ma soprattutto austro-ungarico e ottomano. E si era moltiplicato il disordine monetario, un sacco di monete, non c'erano regole per creare delle bande di oscillazione, Poi nasce un fenomeno completamente nuovo, che è il frutto della nascita di una nuova borghesia, soprattutto nei paesi meno civilizzati, cioè i paesi degli slavi del sud, quelli dove il benefico Knut tedesco non c'è più, la sferza tedesca di cui parlava Tacito, che i tedeschi sanno dare sugli altri popoli, non funzionava più, e lì nascono i nazionalismi economici. Dazi, protezionismi, piccole repubbliche, stati salciccia come la Cecoslovacchia. Se voi leggete questi libri di Svarbi Bo, la miseria dei piccoli stati dell'Europa centrale, o di Jeno Sux, l'attuale Europa, diciamo che la storiografia ungherese soprattutto ha scritto delle cose meravigliose, cui è merito della scuola delle Annali, che è tradotto in francese una ventina di anni fa, capite tutto perché si sviluppa la seconda guerra mondiale. C'era un insieme di protezionismi e di dazi, pensate che il commercio mondiale per il 30% avveniva tramite baratto. E questo però a fronte di un'industria che era stata impegnata parossisticamente nella prima guerra mondiale per creare armi di distruzione di massa. E quindi di nuovo lo spettro della sovracapacità produttiva e del sottoconsumo. Leggete le pagine di Keynes su come quando delegato dell'Inghilterra, il presidente della commissione finanziaria del Trattato di Versailles, è spaventato e inorridito dalla ferocia dei francesi contro i tedeschi. La Francia rifiuta di approvvigionare di vivere le popolazioni che muoiono di fame in Germania se la Germania non consegna tutta la marina militare tedesca alla Francia. Solo la grandiosità del soldato inglese, educato da quella straordinaria scuola che è l'Inghilterra, di civilizzazione, ovunque l'impero britannico passato ha lasciato una scia indelebile di civilizzazione, solo la protesta dei militari inglesi che si rifiutano di prestare servizio nelle terre tedesche occupate costringerà i francesi a divenire a più miti consigli e a rifornire di viveri la popolazione tedesca. Quindi si crea un solco terribile, terribile per il della potenza siderurgica della Alsazia-Lorena soprattutto. Quindi due feroci si scontrano. E naturalmente questo cosa crea? Crea un effetto doppio. Come si sostiene la capacità produttiva? Beh, con la finanza. La finanza cosa serve? A prendere tempo. La banca mista, che allora finanziava l'industria, si indebitava e prendeva tempo. Questo è un aspetto del prendere tempo attraverso la finanza che ha fatto esplodere tardi la crisi, quest'ultima. Quindi questo è un elemento simile. Anche se la finanza era molto controllata, ma dato che c'era la banca mista che si immobilizzava nelle grandi industrie, sosteneva artificialmente imprese che erano già da chiudere. L'Europa era sconvolta dalle dittature e le dittature naturalmente non vogliono la crisi, fanno di tutto per tanto, perché difficilmente possono sopportare il peso di milioni di disoccupati. Io ho sempre sostenuto, questo differenziandomi un po' da Galbraith, ma trovando l'approvazione di quel grande storico che è stato Hildenberg, che le radici quindi della crisi del 29 sono in primo luogo europee, non nordamericane. Diciamo che attraverso l'interconnessione finanziaria, soprattutto attraverso l'intervento delle banche americane che avevano sostenuto la Germania, col piano Davis e col piano Young, o JP Morgan che aveva dato un prestito all'Italia di proporzioni inaudite, no? Nel 26, la crisi si trasmette alle banche nordamericane e si trasmette dal punto di vista finanziario con delle bolle speculative, e anche lì però si affaccia, dato che l'industria americana ci diciamo dall'anticipo di quello che faranno gli americani nella seconda, no? È stato il potenziale produttivo nordamericano a far capovolgere poi le sorti della prima guerra mondiale, che sarebbe durata molto più a lungo, gli imperi centrali avrebbero desistito. Da un lato il putsch bolscevico, che si chiamerà poi Rivoluzione Russa, un putsch di tipo militare, no? Lenin non fa quella stupidaggine che fa Gramsci, che pensa che la rivoluzione si faccia occupando le fabbriche, cosa che fa di... perché così poi ti bombardano, no? Cioè, ti tengono lì. Lenin, che era un genio del corpo di Stato, era un genio militare, cosa fa? Occupa il Ministero degli Interni e decapita subito lo Stato russo, ammazza la famiglia imperiale, no? Cioè, le rivoluzioni non si fanno, non si fanno. Diciamo che in Italia c'è stata una sorta di, sì, esaltata, perché poi tutti diciamo, ma però una terribile vicenda, come spiega bene Angelo Tasca in quel libro insuperabile Nascita e Vento del Fascismo. Quindi, però nascono le dittature. Poi dopo la grande crisi del 29, che quindi è crisi di sovracapacità produttiva in Europa, crisi finanziaria in Europa e crisi prima finanziaria e poi anche di sovracapacità produttiva negli Stati Uniti. Come si esce? Si esce in un modo assolutamente diverso e nuovo, con effetti più positivi. In primo luogo perché in Europa non c'è la democrazia, nella maggioranza degli Stati. E quindi il passaggio da una democrazia privata, da una poliarchia, cioè da un sistema misto di rappresentanza territoriale e a un sistema di poteri situazionali di fatto, viene deciso di trasformarlo in un intervento nello Stato di tipo massiccio, si creano degli istituti speciali che sostengono l'impresa privata, socializzano le perdite, si creano un'impresa pubblica, l'impresa pubblica non è altro che un segmento della finanza pubblica, non c'è teoria della presa pubblica senza teoria della finanza pubblica. Io con cosa faccio l'impresa pubblica? Con le tasse dei cittadini. I cittadini non lo sanno, la signora Ginna non lo sa, non lo sarà mai, ed è una fortuna, perché sennò si incazza. E quindi diciamo bisogna sempre farla stare nell'ignoranza, sennò l'ordine sociale si disgrega. Ma però è un pezzo della teoria della finanza pubblica. Naturalmente è più facile trasferire tasse dalle tasche dei cittadini alla creazione di imprese pubbliche che sistemi democratici, soprattutto avendo a disposizione grandi tecnocrazie come l'Europa aveva. Quindi tutta l'Europa va verso un sistema di economia mista. Francia, e Francia era sempre stato il colbertismo, le regine nazionali sono già all'opera, la Germania, non ne parliamo, aveva in Bismarck già uno dei profeti, l'unico paese che rimane in mente, questo è un paese non europeo come l'Inghilterra, europeo, un paese transatlantico, non ha nulla a che vedere con l'Europa, solo gli stupidi pensano che gli inglesi siano europei, diciamo nel 1452 c'è la battaglia di Asincourt, Enrico V vince, i suoi fantaccini affogano nel sangue i tronfi cavalieri francesi nelle loro armature, sposa anche la figlia di Re Filippo, si guarda attorno e vede tutti questi castelli feudali, ecco, cioè le cose che abbiamo oggi, dice no, ritorno nella mia Inghilterra. Nel 1300 la Magna Carta, una parvenza di Parlamento che era una sorta di Camera di Compensazione degli interessi dei baroni, che ho a che fare io con l'Europa, e fa bene, salva l'Inghilterra da sprofondare nel pantano europeo e euroasiatico. Quindi la crisi del 29 si esce in modo più elaborato, innanzitutto perché ci sono le banche centrali, che all'inizio fanno una politica terribilmente sbagliata ovunque, in Europa e negli Stati Uniti, una politica di deflazione come si fa oggi, pensano che con l'austerità si crei la crisi. Sacrifici immensi, negli Stati Uniti se leggete Faulkner, Furore, Steinberg, insomma, vedete che la gente si picchiava per tagliare l'erba in Central Park e farne delle minestre. Ci sono le foto, i quadri di opera, le lunghe file di farmer che cercano di spostarsi dall'Ohio a Oklahoma, migliaia e migliaia di disoccupati in marcia. Quello che appariva era già la potenza più grande del mondo, la gente muore di fame. Quindi l'America però si inventa questo sistema dell'economia mista, l'intervento di Roosevelt è una durissima battaglia, perché nei primi anni Hoover fa una azionistica, no? Dice no, perché il mercato non funziona, allora la crisi aumenta. Roosevelt agisce su due piani, crea un sistema di impresa pubblica soprattutto nell'agricoltura, National Recovery Act, perché l'agricoltura americana, loro devono ricordare sempre che ci sono due potenze al mondo, solo due potenze al mondo, che sono sia potenza industriale che potenza agraria, gli Stati Uniti e la Francia. Quindi, poi gli Stati Uniti oggi, a partire dal 2020, torneranno a essere anche la prima potenza mondiale di produzione di petrolio, supereranno l'Arabia Saudita, non di questo Shell Gas, di quelle sottronzate per trasmissioni alla televisione, articoli sull'Espresso, su Panorama, su Repubblica, giornali dove scrivono incompetenti, la roba lì non si potrà mai fare, non si possono rompere le montagne, usare l'acqua, tra vent'anni l'acqua sarà più scarsa del cazzo potete fare un cercare. Il problema no, negli Stati Uniti hanno scoperto il petrolio, gas, in Nord Dakota, in Texas, come era prima, chiedono fuori quella fonte meravigliosa che produce benessere anche alla salute, che ha infatti garantito questo fenomeno spaventoso che è l'allungamento della vita umana, che sono gli idrocarburi fossili. Mai c'è stata tanta produzione di petrolio e così tanto la vita umana è aumentata, quindi questa pollution mi pare una grande balla, cioè una grande stronzata. Quindi andate in moto, in macchina, non usate le biciclette, così abbiamo meno costi per il sistema sanitario nazionale, vi rompete meno anche, solo le donne che non hanno un cazzo da fare vanno in bici, con dei tacchi alti 16 centimetri, quindi andate in macchina. Sono un sindaco deficiente per fare le cose che si sta facendo a Milano, ma comunque queste sono robe vostre che voi votate, io no. Quindi la crisi del 29 si esce con un'invenzione, che è la mano pubblica dello Stato, elemento di gerarchia, di allocazione dei fattori, sostituisce la mano privata. Fallimento del mercato, si comincia a intervenire lo Stato, naturalmente poi scopriremo anche i fallimenti dello Stato. Lo Stato, quando non è tecnocratico, subisce il fallimento della politica. A questo apre. Quindi, naturalmente, la crisi del 29 non risolve il problema della disoccupazione di massa. E qui come si risolve? Pensano i giapponesi. Che si vendicano dell'affronto che il colonnello Perry nel 1883 aveva fatto all'imperatore, e quando era andato davanti a Tokyo, dato che i giapponesi non volevano aprire il mercato del riso, aveva bombardato Tokyo, città di legno, grandi fiamme. Per Harbour è la vendetta dei giapponesi. Era stato immune dalla grande crisi, bisogna ricordarlo, perché era un sistema militare industriale fortissimo, con lo shogunato che non aveva perso il potere, cioè l'elemento feudale delle grandi famiglie che si era incorporato nel sistema industriale, col sistema dei Keibatsu, dei Keiretsu, dei grandi conglomerati. Quindi diciamo lo Stato aveva sempre innervato l'economia, una politica di grande potenza, lo sviluppo dell'industria militare, la distruzione fisica del sindacalismo giapponese, che poi nel via hanno venduto qui degli stupidi come ed altri come modello giapponese, cooperazione, certo avevano ammazzato i sindacati, quindi non è che gli operai potessero fare altro, insomma, che dire che erano contenti, diciamo. Il sindacalismo è stato ucciso materialmente negli anni 40. Infatti, quando gli americani fanno il processo di Tokyo, ammazzano un po' di generali. MacArthur purtroppo è fermato da Truman perché voleva tagliare la testa all'imperatore, però i cinesi pensano bene di finire la guerra, c'è anche in Shek di fare rivoluzione cinese, quindi poteva essere pericoloso togliere un simbolo così arcaico che poteva essere usato in funzione anticomunista come l'imperatore. MacArthur se le torna, il Giappone conserva il suo sistema di potere, però quello che fa ridà vita ai sindacati. Elimina le leggi che non permettevano la creazione dei sindacati. Quindi il Giappone era un formidabile complesso dittatoriale militarista che attacca gli Stati Uniti. La guerra mondiale, così come il complesso militare industriale del capitalismo tedesco, produce quel mostro che è Hitler. Addirittura eletto dal popolo, non in modo plebiscitario, ma per l'errore che il Partito Comunista Tedesco fa nel periodo del socialfascismo, di non appoggiare la socialdemocrazia ma di votare per Hitler. I primi passi del patto Molotov-Stalin. E Hitler sale nel 1933 al potere, fa fuori Hilfeder, Hindenburg in modo rapido, il centro cattolico non resiste alle pressioni della Chiesa cattolica, non di quella protestante, per opporsi. Si firma anche lì un concordato, insomma, Hitler dilaga. E che cosa fa Hitler? Hitler fa quello che ha scritto nel Mein Kampf, risolve i problemi del capitalismo tedesco. Le grandi sovrapproduzioni siderurgiche, da meccanica pesante, come si risolvono? Creando strumenti di guerra. Assunto di Bismarck, lo stesso che dimentica la signora Merkel, che fortunatamente non ha più i carri armati, perché sennò farebbe sicuramente un'altra guerra nella sua bavarese stupidità. Mi ricorda quello che dice Tacito nella Germania: i tedeschi adorano gli alberi e spezzano il pane coi denti. Ancora ora, se andate anche nel negozio, nel ristorante più elegante di Berlino, le signore con collane da diversi milioni, quando devono mangiare il pane, lo spezzano coi denti. Da noi ne ha coi denti, ma lo spezza con le mani. Ha ricevuto quantomeno un'educazione cattolica, se sa che si mangia come si fa l'Eucaristia, il pane si spezza con le mani. I tedeschi invece sono sempre rimasti come erano descritti da Tacito. Beh, Hitler cosa fa? Hitler scatena la Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente bisogna vincere le simpatie di Italia, perché chi decide la sorte dell'Inghilterra, no? L'Inghilterra, che per schierarsi contro Hitler e soprattutto superare il pacifismo laburista, perché i laburisti erano pacifisti, non volevano fare la guerra a Hitler, erano, diciamo, seguaci di quel neonazista indiano che lavorava l'arcolaio coperto da stracci, no? Quello che porterà l'India a liberarsi, loro dicono, degli inglesi molto prima, e creerà 6 milioni di morti, degli scontri tra musulmani e induisti. Non stare appoggiato così, non sei in osteria. E quindi, diciamo, solo Churchill e solo l'aristocrazia inglese, un pezzo dell'aristocrazia inglese, non quella filonazista. Sapete bene che gli inglesi hanno dei metodi straordinari per risolvere i problemi di Stato: o uccidono o costringono all'applicazione. Edoardo VII, che era filonazista, che va a trovare Hitler con la sua amante, diciamo, dei servizi segreti di grande classe, e poi dopo lui deve rassegnare le dimissioni. Ma il problema vero era che voleva schierarsi a fianco di Hitler. Sicuramente, se fosse gli inglesi avessero preso questa posizione, l'America da sola avrebbe dovuto assumersi il compito di difendere la democrazia mondiale. Quindi lo scontro interimperialistico è molto duro. Churchill capisce che invece, anche se anche lui sapeva che poi ci sarebbe stato un secondo tempo nella battaglia, che poi bisogna Hitler è più pericoloso, ma soprattutto questo serve a risolvere la grande crisi economica. Con lo stesso prima, montagne di morti che risolvono la disoccupazione, sovracapacità produttiva, ma non c'è più una sovracapacità produttiva. L'industria americana produce una quantità in 3 anni di armi, di munizioni, eccetera, che dà lavoro a... comincia l'immigrazione dal Messico. Non pensiamo... non si riesce addirittura ad avere sovracapacità produttiva per quello che viene fuori dall'industria metallurgica pesante, che si pensa di usarla dell'industria metallurgica leggera, inventandosi una macchina per la signora Gina, la Volkswagen, Volks, il popolo, ecologica anche, no? Perché il mito nazista dell'ecologia, oggi di gran moda, sono tutti nazisti oggi, no? Mangiano robe biologiche schifose, eccetera, diciamo Hitler con quel modo lì manda tutti alla guerra. E naturalmente dalla guerra si esce, e si esce anche dalla crisi. Quindi la crisi del 29 è una crisi eminentemente politica. Nasce da una dislocazione del potere mondiale, col crollo dei grandi imperi, la nascita di grandi nazionalisti, il blocco del commercio estero. E quindi le industrie che si erano sovraccaricate di capacità produttiva non sanno più dove fare, cioè non c'è solvibilità della domanda. Per questo Keynes innova e crea molte la domanda. La sua teoria non è una teoria del deficit spending, sono tutte stronzate, la sua teoria è una teoria dell'investimento. Come continuare ad investire quando la mano privata non investe più, allora deve investire la mano pubblica. E questo funziona, certo che funziona. Tanto è vero che queste istituzioni le abbiamo anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in tutto il mondo. L'agricoltura americana vive di sussidi, ancora adesso, perché non si riesce a chiudere nessuno. I farmer americani non vogliono rinunciare ai sussidi. Il grande problema della conquista degli stati dello Ohio, eccetera, è perché i repubblicani rappresentano i farmers e sono contrari a Bill Clinton e a Obama, che sono soprattutto Bill Clinton, che è stato il paladino della finanziarizzazione dell'economia mondiale e della deregulation finanziaria e del liberismo. Un po' come è stato tutto il pensiero socialista, quindi c'è stata questa formidabile inversione della rappresentanza, per cui il socialismo internazionale è diventato il panino. Comincia in Australia con Hawke, il grande leader sindacale che comincia a smantellare tutto quello che si crea dopo la Seconda Guerra Mondiale, il sistema di welfare, eccetera, protezione dei lavoratori, divieto di immigrazione. Fino al 1984 nessun asiatico poteva entrare in Australia, perché le tribù non volevano abbassare il costo del lavoro. Tutti i sindacati nel mondo sono un po' razzisti, mi pare evidente. Solo quelli italiani, poi si lamentano che abbiamo i salari più bassi del mondo. È chiaro che se fai entrare gli altri, nessuno fa aereo, nessuno va in fonderia. Uno che arriva dalla giungla invece ci va subito. Bene, la crisi di oggi cos'è? La crisi di oggi inizia, e con questo poi finisco perché parlo troppo. E va bene, figlioli, seguite, le vostre cellule lavorano, mi raccomando, tenete l'allenamento. Che cos'è questa crisi? Quando comincia questa crisi? Questa crisi comincia già negli anni 90. Non è vero che comincia nel 2007, ma queste sono cose che possono raccontare a Bocconi, cioè l'università dei coglioni. Cioè, no. Diciamo che... E oggi da questo governo Monti avrà una caduta di reputazione, perché ci vanno solo più figli dei meridionali, dell'Andrangheta, eccetera. Infatti diventerà un problema di ordine pubblico dopo Monti. Ci vanno solo più figli dei camorristi. E però si infiltrano nelle istituzioni finanziarie. Laura da Bocconi, master da Oxford e poi... Forse la DIA dovrebbe un po' chiuderla, forse... ammettere solo i bianchi, vediamo un po' come si fa, no? Io lo so che sono figlio di una siciliana, tu dici sei figlio di calabrese, cos'è? Le peggio di mai, corona unita contro mafia, cioè, quindi. E questa crisi inizia negli anni 90, cioè, anzi inizia col crollo dell'Unione Sovietica, perché il 1989 non è solo il crollo dell'Unione Sovietica, è il crollo della regolazione finanziaria che si è con l'avvento di Roosevelt. Roosevelt aveva fatto delle cose semplicissime, aveva fatto una cosa che si chiamava Glass-Steagall Act, che è lungo 27 pagine, quindi un cazzo, niente, che dove divideva le banche d'affari dalle banche commerciali. Diceva, vuoi fare dei grandi investimenti? Cioè, distruggeva la banca universale. Vuoi fare delle speculazioni? Quindi diceva, le fai però col private equity, lo fai con l'edge fund, no? Dove chi investe è un avveduto, è una persona seria. Tu non puoi usare i soldi dei depositanti, della signora che va a depositare i soldi per fare speculazioni finanziarie. Non puoi creare delle shadow banks, cioè delle banche oscure, non che non passano per la SEC, per il Token Exchange Commission. Non puoi creare delle shadow pool, cioè delle piscine oscure dove tu commerci sistemi finanziari, i derivati, over the country.